Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Ammettiamolo, è capitato a tutti nella doccia di impugnare un flacone di shampoo e balsamo e cominciare a cantare a squarciagola come Laura Pausini bruciata come eretica. Anche la gente famosa lo fa. Jack Black canta i Led Zeppelin, Wyclef Jean si spara a Bruce Springsteen. And perché lo facciamo? Perché non canteremmo in pubblico nemmeno per 1 milione, ma ci lasciamo andare senza freni sotto il getto d'acqua del soffione? Ecco una domanda a cui la scienza ha trovato il tempo di rispondere. Per prima cosa, la doccia è un posto caldo, isolato e confortevole, e soprattutto, di solito siamo completamente soli. L'acqua calda porta via lo stress, il corpo rilascia dopamine, migliorando chimicamente la qualità delle nostre prestazioni. Secondo, cantando la respirazione accelera, il sangue diventa più ossigenato, aiutando il cervello a ottenere risultati migliori, tipo meditazione. Terzo, l'acustica. Non esiste miglior riverbero naturale di quello delle pareti del bagno. Merito delle piastrelle, che non assorbono il suono ma lo fanno rimbalzare, aggiungendo un po' di bassi e diffondendo armonici attraverso la vibrazione di tubi, vetri e specchi. Alla luce di tutti questi fattori, la scienza ha compilato una playlist di 40 canzoni perfette da cantare sotto la doccia. Oggi ne scopriamo 10. Anno dopo anno, shampoo dopo shampoo, in una raffica di scatti col phon. Chiudete la porta a chiave. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1981, Sheffield, Gran Bretagna. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Prima di essere un film da Oscar con Bradley Cooper e Lady Gaga, A Star is Born è stata una mediocre pellicola romantica, masticata più volte dalle bobine di Hollywood nel 37, nel 54 e infine nel 76, nella versione interpretata da Barbara Streisand e Kris Kristofferson, uno così country che gli puzzano di merda di cavallo anche gli SMS. Il pamphlet della Warner Bros., oltre che sugli schermi, viene distribuito nelle edicole sotto forma di fotoromanzo, una specie di fumetto composto da istantanee del film, didascalie e dialoghi. Tra i lettori più appassionati della storia su carta satinata c'è Philip Oakey, leader degli Human League, il gruppo spalla che apre i concerti di Iggy Pop e David Bowie. Il conflitto fra la giovane idealista e la rockstar consumata apre le sinapsi del giovane Oakey, regalando a lui e alla sua band l'unico grande successo della loro carriera. Don't You Want Me. Breve storia del dissing. Ovvero il genere musicale che utilizza il testo di una canzone per insultare o infamare qualcuno in modo più o meno palese. 1962. Joe Tex pubblica You Keep Her per denunciare James Brown che gli aveva scopato la moglie. James, I got your letter. It came to me today. 1968. John Lennon scrive Sexy Sadie, in cui accusa il guru indiano Maharishi Mahesh di aver causato lo scioglimento dei Beatles. You made a fool of everyone. Sexy Sadie. 1975. Nell'ouverture di A Night at the Opera, i Queen dedicano al loro ex manager la traccia Death on Two Legs, morte su due gambe. Un modo molto British per dire va a morire ammazzato. '1990. Arriva l'hip hop e si appropria del genere. Inizia la faida tra Tupac Shakur e Notorious Big, che porterà alla morte violenta di entrambi prima di vedere il terzo millennio. 1998. Greg Alexander dei The New Radicals decide di seppellire sotto un metro di sterco la band americana degli Hanson, quella scopa secca di Courtney Love e per finire anche Marilyn Manson. Il reverendo è l'unico a non prenderla tanto sul ridere e manda a dire al giovane Alexander che gli strapperà la testa dal collo se gli sentirà eseguire in pubblico la strofa che lo riguarda di You Get What You Give. 1967, Detroit, Michigan. Ci sono due racconti che si intrecciano nella città dei motori, trame elicoidali come filamenti di DNA. La prima è una storia che inizia, l'altra una che finisce. Una è quella di Nick Ashford e Valerie Simpson, coppia ai tasti del piano come nella vita, che sforna canzoni mediocri ma ha da parte un uovo d'oro da proporre alla Motown. L'altra è quella formata da Marvin Gaye e la 21enne Tammy Terrell, innamorati soltanto per la foto di copertina, che stanno per affondare nel loro più grande successo. Durante un concerto alla Hampton University in Virginia, Tammy collassa sul palco fra le braccia di Marvin. All'ospedale le diagnosticano un tumore al cervello irreversibile che la falcerà in meno di 3 anni. Una e una sola sarà il computo delle volte in cui la coppia ha cantato insieme dal vivo Ain't No Mountain High Enough. Listen, baby. Marzo 2019. 18.000 newyorkesi escono dal Madison Square Garden e si riversano sulle banchine della Subway come i gettoni di un jackpot alle slot. E questo è il rumore che fanno. Cantano. Non una canzone qualunque, ma un inno, un tributo all'indipendenza. Dietro quelle parole c'è la storia di una cantante che ha combattuto per essere libera, per spogliarsi dallo stereotipo anni 90 dell'artista dance bella e manipolabile. E poi ha lottato ancora contro la sua etichetta per poter parlare di aborto nelle sue canzoni, per continuare ad appartenere alla dance anche quando la club culture sembrava conclusa. E ancora nel 2005, fondando una propria etichetta indipendente, e nel 2010 con Body Talk, l'album che la riporta sotto i riflettori della scena mondiale. Il primo singolo è un drama da dance floor, un po' Dancing Queen degli ABBA, un po' Into the Groove di Madonna. Qualcuno ci vede un cuore spezzato, qualcun altro un inno LGBT. I 18.000 del Madison, probabilmente, ci sentono solo una gran voglia di libertà. Quella collettiva della statua che protegge Manhattan, quella individuale di chiudersi in un posto a ballare da soli. Istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Tennessee. Adele ha in tasca il Grammy per il suo album di debutto e sta battendo il sud degli Stati Uniti in cerca di Wanda Jackson, ex turnista di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, la donna più rockabilly del mondo. La scova in un saloon di Chattanooga, con un milione di anni addosso ed un altro di storie da raccontare. Si dicono addio davanti alla Delta Queen, la barca a vapore che ha cucito l'evoluzione della musica americana. È l'autista del bus di Adele a raccontare alla cantante tutta la storia per filo e per segno, nelle lunghe ore di strade dritte piene di niente. Si chiama Mason, il buon vecchio Mason, che tanto il cognome non è importante in un posto dove 2 su 3 fanno Smith o Jones. È importante invece la strada che il battello a vapore copriva da est ad ovest un secolo fa, scaricando sul Tennessee i musicisti country diretti a Nashville per riempirsi la pancia di quelli jazz diretti a New Orleans, avanti e indietro come l'archetto di un violino. E mentre Mason racconta, Adele ragiona, immagina, crea, e WKDF 103.3 suona a Dolly Parton con Jolene. Un anno dopo, invece, ogni radio europea suonerà la canzone che quel viaggio ha generato, con la complicità del Tennessee e un tocco del vecchio Mason. Scars of your love remind me of us, they keep me 1990. Reno, stato del Nevada. Black Rock City non esiste. Viene costruita e smontata ogni anno nel mezzo del deserto, in occasione del Burning Man Festival. Chi decide di partecipare deve portarsi tutto da casa: generatori di corrente, cibo, acqua, tende, medicine e kit di sopravvivenza. A rendere tutto più estremo ci sono i 40 gradi di escursione termica fra il giorno e la notte e ovviamente tornado e tempeste di sabbia. L'unica forma di scambio concessa è il baratto, a parte i $475 di cauzione per sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità. Nel 2007 i partecipanti furono 63.000, l'anno dopo 70.000. Lo scopo di tutta la faccenda? Ascoltare un po' di musica, ma soprattutto guardare un enorme fantoccio di legno che brucia durante l'ultima notte del festival. Detto così, può sembrare una cazzata, ma i Train ci hanno scritto una canzone da 7 milioni di copie, la più scaricata del 2010. E quindi...1984, Londra. Andrew e George sono amici dai tempi del liceo, hanno messo su una band e girano l'Inghilterra per cantare dal vivo. Coi primi soldi hanno preso in affitto un appartamento vuoto, ma lo usano come studio di registrazione. È più facile vivere a casa di Andrew con i suoi genitori, letto fatto, vestiti stirati, colazione sempre pronta. E per chiedere a mammina di essere svegliati per tempo, basta lasciare un bigliettino sul tavolo con scritto «Svegliami prima di andare», «Wake me up before you go». Una volta Andrew scrive per errore due volte up sul biglietto, così aggiunge un secondo go per fare il cretino. George lo legge e ha una folgorazione. Si chiude in studio a lavorare e siccome il batterista è in ritardo, lo sostituisce con una Lindrum, la batteria elettronica che diventerà il marchio di fabbrica di Frankie Goes to Hollywood, Tears for Fears, Madonna e Ha-Ha. 4 settimane dopo, il post-it di Andrew è al primo posto nelle classifiche USA, Europa e UK. Si sono svegliati gli Wham! Los Angeles, California. Abbiamo 3 settimane importanti davanti a noi. La stagione dei matrimoni! Figlia di una troia imbagascita! Ne ho già 17 assicurati. Nel film Due singola nozze, Owen Wilson e Vince Vaughn si imboccano ai matrimoni con il chiaro obiettivo di scroccare da bere, da mangiare e di sbattersi qualche damigella d'onore compiacente. 9 anni dopo, per la precisione il 5 dicembre 2014, 5 stronzi molesti a bordo di una Lincoln Continental Convertible del 61 sfrecciano fra le strade della città degli angeli per fare irruzione nelle cerimonie nuziali della città. Questa volta non è un film, è solo la realtà ripresa in diretta per girare un videoclip. Quello di Sugar dei Maroon 5. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, I don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my show. Dirvi che Polaroid si fermerà, ma non è questo il giorno, perché Polaroid tornerà tra poco su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica su Radio 105. 1976, Londra. Essere gay è una colpa. Non importa che tu sia britannico, americano o europeo. In questo tempo l'omosessualità è una deviazione, un crimine contro la morale o, nei casi più moderati, una malattia da estirpare. Ma Elton John non ci sta. Quando il giornalista John Rockwell lo etichetta come rotto in culo sulle colonne del New Times, The Rocket Man sclera di brutto e vuota il sacco. Sì, è vero, gli piace il cazzo e gli è sempre piaciuto. Sì, il matrimonio con la sua ex segretaria Linda era una copertura. E sì, ha perso la verginità nel 70, dietro le quinte di uno show televisivo a Los Angeles con John Reid, il suo manager. Il suo coming out finisce in copertina su Rolling Stone. La sua carriera è in fondo al cestino dei rifiuti. Per arrivare al numero uno in classifica, deve cominciare a firmare i pezzi con uno pseudonimo. Anne Orson, in duetto con Kiki D. 1983, New York City. Sui piatti delle radio gira il nuovo singolo di Cyndi Lauper. La nota dell'ufficio stampa dice che è un inno femminista, una specie di manifesto della solidarietà fra donne e della parità di genere. Il testo del pezzo non lascia dubbi. Le ragazze vogliono divertirsi, esattamente come i ragazzi. Vogliono uscire la sera, bere un po' troppo e magari farsi una scopatina, senza complicazioni. Non c'è niente di male. L'unica cosa che la cartella stampa non racconta è un dettaglio fondamentale. E cioè che Girl Just Wanna Have Fun è stata scritta da un uomo, Robert Hazard, e che in origine voleva raccontare la storia dall'opposto punto di vista. Un uomo che ha voglia di scopare e cerca una ragazza da una botta e via. E invece trova Cyndi Lauper. Ottima acustica, moderata spensieratezza, meritato relax. La scienza può spiegarci quali sono le cause fisiche, biologiche e neurologiche del cantare sotto la doccia. Può perfino analizzare milioni di brani e selezionare per noi i più adatti al palco del cesso. Tirare ripetutamente lo sciacquone per simulare l'entusiasmo del pubblico, invece, non ha niente di scientifico. È pura fantasia, è estro, è arte. È un piccolo momento di follia privata da custodire nel nostro album segreto di scatti di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna domenica prossima alle 23. Alle 23. Su Radio 105.